soltanto 10? Cosa c'è, Robè? E ben Natale. No, non sono natalino, sono Marco. Ah, cacca Marco, scusa, non t'avevo riconosciuto. E beh, tutto a posto. Alla grande, Robè, alla grande. Qua in radio giocando con, come sai, con tutti quei pulsanti, quei bottoni, quelle luci, che è uno spettacolo. Ma in casa sì. Ti ho detto che sono qua in radio giocando con le luci e i pulsanti e i bottoni. Dove ce ne sono tanti i pulsanti e i bottoni? Qua sicuramente c'è la radio, ce ne sono. Sicuramente in casa ne hai di più, ma che macchina, secondo che macchina c'è, di lucette e lucettina ce ne sono anche di lì. E cosa stai utilizzando? Adesso qua sto utilizzando un vecchio SBE. Un vecchio, cosa hai detto? Scusa, non ho capito. Un vecchio SBE, si tratta del console 2, secondo. Sì, sì, non lo conosco, una bella modulazione, il microfono suo di coso, in dotazione, io ne ho due di microfoni SBE. E il suo microfono da tavolo, quello nero, con col bordo del becco cromato e con la scritta SBE blu. Sì, sì, uguale al mio, identico. Ne ho due, uno perfettamente funzionante e l'altro hanno fatto un'operazione per utilizzare il jack anziché utilizzare il pentapolare, diciamo, come o quadripolare per il collegamento. Hanno usato il jack tipo cuffia, forse per qualche apparato di vecchia generazione. Ho capito. E la radio è un base di... questo era abbastanza famoso della SBE, non so come dirti, è quello con le bande laterali, con 23 canali, addirittura con la manopola dei canali che non sono neanche, non ci sono neanche LED o luce, niente, perché è la classica manopola di vetrino in materiale plastico con il numero inciso e verniciato dove ci sono scritti i canali, uno sì e uno no fra l'altro. Mi pare che sia del 72 o qualcosa del genere. No, sta andando benissimo, bella modulazione naturale, chiara, non posso dire niente, anche il livello è buono, non è bassa, è bella pulita e chiara, considerando che è un apparecchio di vecchia generazione, sta andando alla grande. No, poco fa ho girato un secondino appena acceso, ero sul canale 15, ho girato, ho sentito questi romani in banda laterale, ma arrivava a 9.40, è durata pochi secondi la propaganda, sembravano qua attaccati a noi, infatti ho detto, ma cavolo, poi stavo cercando di dire, adesso faccio in banda laterale, neanche il tempo di fare, tu, è durata pochi secondi. Sta durato 30 secondi, ma fortissimi. Diciamo che con questi repentini cambi termici alle volte ci si creano proprio delle aperture un po' più repentine rispetto ai normali fenomeni di propagazione, ma non mi meraviglierei se magari uno si sposta e chiama e rispondono dalla penisola, no? Adesso non ho, io sono impegnato in una trasmissione in FT8 in 20 metri, c'è una DX Expedition in Botswana di un equipo di russi e non mi posso muovere a cercare altro, ma se hai sentito qualcosa così in alto, evidentemente insomma c'è un po' di apertura, generalmente dura un po' di più, ecco, non penso che sia stato un esporadico, ecco, mi viene difficile pensare a un fenomeno di esporadico perché sicuramente sarebbe stato con un collegamento più a lunga distanza che non uno in short path così come di poche di 400 km, 500 km giù di lì, generalmente sono un pochino più lunghi, però tutto potrebbe essere, Robè. Qua la cosa particolare di questa radio è che e siccome, come ti ho detto, non c'erano né nixie o sistemi di illuminazione e cose varie, che hanno fatto un altro quadratino come quello dello Smitter con inciso on the air. E praticamente quando vai in trasmissione si accende la lucetta della trasmissione classica, lucetta gialla, e illumina però il pannello posteriore, è un po' tipo effetto insegna di un tempo, e appare la scritta on the air in azzurro, che è veramente commovente, Robè, commovente. Immagino, sono bello, a me piacciono queste radio di base, i veicolari non niente di che, non che non sia qualcosa di particolare, diciamo di strano, dai, di diverso dal solito, ma io piacciono solo le stazioni base. Te l'ho detto, diciamo, che te le ho fatte anche vedere, c'ho quel Luis, il vecchio, e il Pace, parliamo di quelli vecchi vecchi, poi c'erano anche altri, i baracchini vecchi di base, però i più belli esteticamente sono questi, Luis con il frantalino base in legno, finto legno, diciamo, tipo serigrafata in legno, una plastichina, ci hanno messo i laterali, i panni laterali in legno, mentre il Pace è totalmente in alluminio, tutto il frontale sembra un amplificatore domestico Hi-Fi con tre strumentini, e quello c'è molto bene di modulazione, magari l'eccezione è un po' troppo rumoroso, si tira presso tutto, satura, se ci sono segnali troppo forti deve attenuare, però in trasmissione col TAN si ha da fare, mi hanno sempre detto che uscivo bene. Sì, c'ero anche io il Pace, il 1000, no? Quello lì è il 1000, quello che avevi tu, e c'ero anche io. C'era anche io, va benino, andava benissimo, adesso ultimamente un po', forse qualche cosa è andato, si sposta leggermente, ma bisogna lasciarlo un po' acceso, sicuramente poi si riprende. Molto bello, nuovo col Pace. E, mentre il Royce, io di Royce ne ho due, e adesso non so quale versione è tu, perché ce n'era uno che aveva, questo che ho io è quello che ha il frontale nero con tre strumenti sempre, però gli strumenti sono a destra, mentre poi ce n'era un altro che avevo tanti anni fa, che fra l'altro avevo venduto a Walter, e poi me ne sono pentito perché comunque era una bella radio, e invece aveva i tre strumenti nella parte opposta, a sinistra, invece questi che ho io sono tutti e due uguali, sono con frontalino nero con tre strumenti a destra. No, il mio è quello a sinistra, che hanno fatto anche la versione con l'orologio, questo è il mio senza l'orologio, c'ha tre strumentini e a sinistra verdi, le fiancattine della costruzione, diciamo, dell'involucro sono in legno, originale americano alimentato a 110 volt, infatti c'è il trasformatore esterno per elevare la tensione a 220, mentre il Pace funziona proprio a 220, deve essere per il mercato europeo ed è l'8193, c'ha l'orologio digitale però non analogico a lancette, c'ha tre strumentini eccetera eccetera, 40 canali, bande laterali e AM come il coso, però lui in trasmissione sinceramente non è che mi abbia soddisfatto più di tanto, non ho avuto modo di utilizzare diversi microfoni, ho provato col suo microfono e un altro, però dovrebbe provarlo con fare una prova con altri microfoni, magari riuscirebbe a tirarne fuori qualcosa di meglio. Avanti a te. Guarda, ti dico, vabbè, il Pace e il 1000 va benissimo, addirittura col suo microfono anche da palmo. Il Royce io lo usavo con uno dei Turner, non mi ricordo con quale, e andava benissimo. Adesso è un po' di tempo che non lo metto più, ce l'ho accattato sul lato sinistro della, davo male per le fotografie, sopra i Simba, sopra i Per Simpson, sopra i due Simba, ce l'ho. Prima o poi lo rimetto in funzione. Niente, tutto lì, dai, va bene. Ti saluto e io mi allontano, vado a seguire questa cosa e vediamo un po' se riesco a collegarli, c'è tutto il mondo che si sta sbraitando e tra l'altro mi interessa perché mi manca il Botswana in 20 metri, vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Dai, ti saluto, buon proseguimento e magari ci sentiamo dopo. Ciao ciao, Marco Scorpion in QRX. Ok Marco, dai, buon proseguimento, auguri per il collegamento, speriamo bene, dai, sono soddisfazioni, belle soddisfazioni, dai, io tengo acceso qua, faccio una chiamata generale, se entra qualcuno, se no faccio altre cose. Ciao ciao, alla prossima. Ciao ciao Roberto. Ciao ciao ciao a tutti e due, ciao. E beh qua. Sempre facendo, ciao Marco Scorpio, buonasera, ben ascoltato. Sempre facendo Roberti. Ciao ciao Claro. Ciao ciao Marco. È una bomba questa radio, questa che sta uscendo adesso, bella, come piace a me qua. Questo è il mitico 430, finalmente, in un mese che era fuori, è arrivato ieri. Ieri lo sto tenendo sotto controllo perché poi chiaramente devo staccare e portare via. Sembra che vada bene, sembra che vada bene. Almeno è tutto revisionato, tutto a posto. No, sta andando alla grande, fucilata il segnale e idem la radio forte e chiara, non vedo nessuna distorsione, ottima, come era prima in origine. Ehi, fucilata il segnale, mi sembra un po' strano, sono con 10 volte perché il tecnico mi ha detto di non tirarlo, io sono abituato sempre a tirare il collo a questa radio, infatti me l'ha limitato, non va più di 50 watt in AM, ha fatto bene. regolato a 50 watt, che è già troppo, perché dalla casa se è benissimo questi non danno più di 40 watt, però 50 watt me li ha messi in AM, io lo sto dirottando con 10 watt, 20-25 di picco, va bene così, va bene così, almeno 10 anni che non, questo non l'ho comprato la batteria, 10 anni fa, fatto il conto. Ma è stato revisionato, Fabrizio mi aveva cambiato il frequenzimetro perché si era bruciato e basta. Finalmente l'abbiamo mandato un po' a mettere veramente a posto, ha cambiato tutta la carretteria, roba che non voleva a vista, mamma mia. Tutta, sai, tutti quegli spinotti che c'ha, che sono tutti fascettati, fini fini, ma tutta messa nuova, hanno cambiato un sacco di integrati, di cose, balle, poi vabbè, comunque. Va bene così, e tu cosa stai combinando? Io ho acceso adesso 10 minuti, ho fatto una chiamata, mi ha risposto Marco e pochi secondi prima ero sul 15, ma la laterale c'erano segnali 9.40, questi due romani, infatti ho detto cacchio, dura, forse io ho visto la fine della chiamata, però è durato pochi secondi, infatti stavo chiamando, neanche tempo a chiamare, di colpo è scomparso il segnale, ma non abbassarsi piano piano, proprio scomparso. Ma ti dirò, l'ho notato anch'io sul 15, però non stavano parlando, c'era tipo musica o forse qualche pezzo di qualche film, non lo so, boh, sentivano spari, cose così. Era 9 più 20 qua. Eia. Ok, facciamo un attimo di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare sul 10, avanti sul 10 che vuole entrare, se no riprendi tu qua. Vai qua. Mi sa che reviderà tutta la frequenza di diversi giorni che ascolto, ma no, non c'è più nessuno come prima. Vabbè, pazienza, io ho altro a fare adesso, mi stavo rilassando, vabbè, mi ho messo a posto un po' di altre scatole, mi stanno portando dal Mac, infatti sembra un trasdocco, sai, di quelli organizzati, ho con tutte le scatole uguali, tutte le scatole uguali, andiamo un bel po', un po' di viaggi li ho già fatti, ma stasera proprio non mangio più bianco, basta, mi sono seduto un attimo, infatti stavo ascoltando in 40 metri, che era un bel po' che non ascoltavo, un paio di mesi circa, perché radio non ne avevo, e poi ho girato, ho sentito a te con Marco qua nel canale 10. Va bene, va bene. E la mobilia già qualcosa hai tirato via o ce n'è ancora tutto da portare via? No, vabbè, di mobile non ho toccato niente ancora, ui, non stai scherzando. Assolutamente no. Appena siamo organizzati, perché ancora sono i muratori, stanno finendo un pezzo del Caverio che praticamente trava acqua, non ho capito perché, e stanno finendo di permeabilizzare il pezzo del Caverio, poi hanno fatto un'altra mano di tinta, di bianco, insomma stanno facendo ancora alcuni lavori. E io prima di andare, appena vanno via loro, dobbiamo andare tanto a pulire, e cosa porti i mobili con la casa così. E c'è tutto da pulire per bene, ho già chiamato degli amici di mio genero che hanno un'impresa di pulizie, quindi prima devo entrare loro, disinfettare tutto, pulire per bene tutto, poi si portano i mobili e roba. E poi si inizia insomma a mettere tutto a posto, basta, ma devo anche tagliare l'erba nel piazzale, nel grasso del cancello, perché c'è l'erba alta un metro, quindi insomma c'è prima a fare bene pulizia di portare i mobili e roba. Già rubido, poi se secca l'erba è un problema, mi cazzo, basta una scintilla, una cosa e pigliavo goduto, lasciamo perdere. E adesso qualcosa, ne ho visto di cose rovinate per il fuoco, bisogna stare molto molto attenti, poi l'erba è un attimo, con quelle piogge che hanno fatto questo inverno, in un attimo è cresciuta, non fai tempo a tagliarla e il giorno dopo ce l'hai a coso, già lunga, lasciamo un attimino ancora di bianco, se no riprendi tu, Cla. Avanti il break. Ehi, ciao Claudio, ben sentito, ti rilancio a Claudio, vai Cla. Ciao Cla, buonasera, ben ascoltato. Ci vuole tempo, io non ne ho di fretta, pian pianino mettiamo a posto tutto, anche perché il decespugliatore mio non ne ho, quindi va bene, piano piano, vabbè, non avremo bressa, quando ce la facciamo, cioè, intanto il tempo ce l'ha visto com'è, domani piove di nuovo, è meglio aspettare anche il tempo bello per fare cose fatte bene, capito? tutto qua. Buonasera Claudio, a te il cambio, avanti. Guarda, al 430 che penso che sia abbastanza allineato questa volta, perché prima noi mi fidavo molto andare con tu, dici 9 più 20 pieno. 9 più 20 pieno, la radio 5 perfetta, senza nessun problema. Stavano con 10 watt, picchi di 20, 25, giusto per farlo andare un pochino, visto che si sente anche all'interno, sai, quell'odore di prodotti, di cera, di colle usate per poter fare tutti i lavori. Forse non lo voglio fare andare a scaldare molto, è ghiacciato. Però 9 più 20 radio 5, Claudio. Ehi, a me è sembrato che qualcuno voleva entrare, da parte mia c'è poco meno, un peluzzino meno di 9 più 20. Vediamo se c'è qualcuno che deve entrare, ho visto un colpo di portante, avanti che vuole entrare. Vabbè, quando stavi parlando hanno dato un colpo di portante, vedete, qualcuno o per errore o non vuole entrare, come non detto allora. Avanti a te classe. Ehi, non c'è problema. Uno o l'altro, basta che parliamo. No, io non ho fatto niente perché qua è 9 più 20, Claudio, quindi sicuramente la portante no. Era leggermente più bassa e perciò non ce l'ha fatta a coprire la sua voce. Va bene, riprendi Claudio, riprendi. Babbo, come sta? Tutto bene? Sì, Claudio, è un po' stanco, ma comunque un po' provato da questi movimenti strani che sto facendo, queste cose, sali e scendi, sai. Però vai, linea di massima va bene, non so se te l'ha detto, l'altro giorno mi sono fermato che c'era babbo con mamma da Ottavio, che abbiamo fatto una chiacchierata, e quindi niente, dai. Si tira avanti, Claudio, si tira avanti, nel bene, nel male, si tira avanti, dai, riprendi e fai girare. Sì, no, da questa parte va benissimo, niente, te l'ho detto. Mi meraviglia questo fatto che ti salgono le stazionarie, perché ieri infatti ti sei abbassato parecchio di segnale, te l'ho detto infatti, mi ha detto che hai abbassato anche tu il livello di potenza, però poi da quel punto sei sceso ancora di più, infatti ho detto che strano, che teoricamente l'antenna non stava piovendo ieri, forse c'era un po' di umidità, non lo so, ma spostarti così, abbassarti il segnale in modo così repentino, è stranissimo, o c'è qualcosa nel PL bagnato, non lo so, cerca di risolverlo. Quando metti un'antenna seria utilizza la possibilità di utilizzare anche i connettori buoni di qualità e un cavo naturalmente di qualità, è inutile risparmiare, lo fai una volta per sempre, metti un bel palo fissato bene, non è necessario che sia lunghissimo, è importante che sia ben fissato e vedrai che uscirai sempre in modo stabile, perché il problema tuo, non tanto, tante volte cambi, ti alterni segnali belli con segnali più bassi e non è normale questo. Ok, di nuovo a te Claudio Di Muros. Cappa, va bene, va bene. Antenne, mamma mia queste antenne. È un casino, se avessero venduto nuovamente le mantle, vedi, ci vuole poco, compri una mantle e si è a posto, ma comunque qualcosa la trovi sicuramente. Sicuramente qualcosa si trova, io adesso appena lascio tutto a ultimo le antenne, fortunatamente ne ho pochissime, devo togliere quel di Polo, quello grande Ruby, quello poi vedi un po' se ti serve, te lo do, ma alla fine non teneva nulla, comunque ci sta, da una parte all'altra ci sta. E devo togliere quelle due piccoline, quelle VU, quelle piccole e la mantova e basta. Gli altri cavi li ho già tutti tirati su, c'è solo quello della mantova e basta. Va bene, va bene. Come stavo dicendo, robe? Non me la metto, riprendi. Scusate, un attimino, sono al telefono, richiamo subito. Ehi, riprendi qua. Va bene, lo so, l'antenna è così, lo fanno quel lavoro. Io mi ricordo che a me me lo faceva la Super Regibus, che c'era quella bobinetta sotto quando ero a casa di mia mamma. Ogni volta che pioveva avevo sempre un po' di stazionarie. Poi invece quando ho iniziato ad avere la mantova, ma quelle antenne lì non ho più avuto problemi. Però sono delle antenne che fanno questi problemi, fanno questi disturbi quando appunto piove, ma poi quando si asciuga è già torna alla normalità, non c'è problema, riprendi. Lo sai, io sono fedele, è sempre l'MC60 col 430, te l'avevo detto anche a babbo, il 430 l'avevo mandato a vice mare, perché è tantissimi anni che non lo toccavo, con la scusa che avevo il 440, il 140, quello era sempre in ascolto, il 40 metri, sono in bande amatoriali, alla fine quando ho venduto tutto mi sono tenuto questo e mi ero promesso appunto di mandarlo al centro assistenza e farle dare una bella sistemata e sono tenuto un mese, è arrivata ieri. Arrivata ieri, per quello mi senti con questa, se no ti ricordi che usavo sempre il Galaxy. E quindi niente, MC60, il Mickey Gain ce l'ho sempre a 2, il processore inserito, infatti sono 10 modulati, 20, 25, a te. Sì, ascoltami, perché io l'FT1000D l'ho avuto, si chiama il Millone, FT1000D, però Millone, della Yaesu, che è grandissimo, enorme, è molto grande, però solo HF, quello lì che cos'era, quadribanda? Beh, se è quella che ho avuto io, la mia era solo HF, sì, versione da 200 watt, però era solo HF, l'FT1000D io conosco quella, poi mi potrei anche sbagliare per carità, però è grande quanto il 940, una cosa del genere, forse anche più grande, un barrasone. A me non aveva bruciato il fulmine, l'avevo mandato al centro assistenza della Iesio, siccome ci voleva troppo per ripararla, mi avevano proposto appunto, me la ritiravano loro, avevo comprato un'altra radio, avevo comprato l'FT1002. Però che risulti a me l'FT1000D, quella che conosco io, è HF, versione a 200 watt, e poi ti ripeto, non so se ne hanno fatto altre, non lo so. Comunque, non vorrei sbagliare, io l'ho avuto l'FT1000D, però si chiamava il Millone ed era HF 030. Ciao Cla! Il Millone, l'FT1000D del 74, allora è quella che avevo io. Si riesce a tronto del bianco, se rientra Roberto. Non lo so, sinceramente non lo so, non ti voglio dire balle perché io ho avuto le 1000D, però era solo HF, grandissima, enorme, un barrasone, me l'ha bruciato il fulmine. Va bene, oh Claudio, dammi un secondino che mi sta chiamando mia moglie, un minuto solo, vediamo se rientra Roberto, va bene. Eccomi, ecco, scusa che mi sono voluto allontanare un attimo, magari dopo mi allontano di nuovo. C'è qualcuno che sta cercando di disturbarti ma non ci riesce. Ciao Cla, ero io, poco fa. Aspetta un attimo, vediamo, c'è qualcuno che vuole entrare su 10? Ciao Cla, per un saluto, buonasera. Ciao Natali, buonasera, ben ascoltato. No, ma non eri tu sotto, c'era una portante a 9+20. Vabbè, comunque non ti fa niente, no, stai sereno, tranquillo, no, non c'è nessun problema, se poi c'è qualcuno che vuole disturbare, io non faccio altro che spegnere l'interruttore, no, non ho tempo da perdere, riprendi. Sono rientrato io. Eia, riprendi Robert. Eia, no vabbè, forse qualcuno, dai, prendiamola sul coso che qualcuno non riesce a parlare, vabbè. Ciao Natali, comunque ben sentito. Ok, Natali vuoi entrare, cosa stai facendo? No, era per un saluto, dai. Era un ascolto e mi stavo ascoltando. Ehi, a orecchio di porco, come dicevi tu, a lecce di buco. Sono in convalescenza, mi hanno fatto l'altra operazione, quindi no, non ho tanta voglia di parlare, dai. E allora dai, se non rimane in ascolto, se vuoi entrare, quando vuoi siamo qua. Di nuovo a te Claudio Buros. Aspetta, ma il Swan TS700 per caso? Perché l'ho avuto anch'io quello. Ah, 200S, no, quello no, io ho avuto il 700, il Swan 700 HF. Solo HF, una bella radio, però ripeto, sono radio passate ormai. Ce l'aveva anche un radiomatore che è morto a Sassari, che era anche CB un periodo. L'avevo visto proprio a casa sua, mi era piaciuto e me l'avevo preso, usato, ma ti parlo di tanti anni fa. Sì, sono belle radio. E vabbè. Cappa, riprendi Robè, fai compagnia un attimo a lui perché io devo assistere un attimino a mia moglie, deve fare delle manovre di medicina, non vorrei che sbagli. Riprendi Robè. frega. No, me l'ha detto tuo padre, però dice che era un HF, ma quello che mi sono l'FT1000 quadribanda io non ne ho mai sentito. Ho sentito come HF e con le VARC, come V non l'ho mai sentito io. Swan non lo conosco, diciamo come ieri Swan io li conoscevo come apparati da nave, da, diciamo da imbarcazioni, però erano tutti canalizzati a sintonia continua, sinceramente non ne ho mai visto. Bisogna verificarlo, naturalmente che sia efficiente. Sono degli ottimi apparati per uso gravoso, li facevano. 757 se c'ha dei problemi un po' di complicati, a quel punto ti danno una radio funzionante e prendila e basta. Naturalmente però l'altra deve essere funzionante e cosa. Me ne ha accennato tuo babbo, quando è che ci siamo sentiti? Non è stato se ieri o stamattina, adesso non mi ricordo sinceramente, per WhatsApp o ieri, non mi ricordo, mi ha accennato qualcosa di quella radio che era montata sulla barca di Foga quando faceva il giro dal mondo, mi sembra, non è così? Sì, vabbè, naturalmente funzionante, sempre considerando il valore delle due cose, non è che uno gli dà una radio vale 100 e l'altro te ne ha una che costa 20, tutti e due funzionano. Bisogna verificare le due cose, se il 757 ha dei problemi, io dico guarda, questa radio in riparazione ha questi problemi rimediabili se uno si vuole mettere, perché ti prende un valore di un 757, diciamo di mercato vale da 250 a 300 euro, non pensare che valga tanti soldi. Questo Swan sicuramente io do solo di nome, però non lo conosco, che modello è? Ma io non ero preparato 757 per il Swan, una radio troppo vecchia, capito? Adesso te la mando, però non è il 200S, è il 270S, il 200 non lo fanno, e non è a sintonia continua, è decametrico. L'ho trovato io, è nel 74, parla proprio di quello di Ambrogio Foga, il navigatore solitario, è stato fatto nel 74, questa radio è molto vecchia, cazzo, nel 74 vent'anni fa, fa 50 anni tra 3 anni con la radio lì, figurati, per cui lasciamo perdere. Questa è la radio che ha fatto Ambrogio Foga quando faceva il giro del mondo. Io non l'ho redatta, per una radio vecchissima, a parte il fatto che è 10, 15, 20, 40, 80, ma è decametrico, non è a sintonia continua, non ha frequenzimetro, non ha niente, 757, anche se c'è la sua età, è una radio a sintonia continua, è molto più nuova, e se è messa a posto, secondo me, lavora meglio di una di quelle, poi ognuno ha le sue cose, questa è sicuramente la collezione, non lo so, vabbè, vediamo un po', bevete voi, ok, dai ragazzi, io vi saluto e vado a portare il cane, mi ha fatto piacere avervi sentito, ci sentiamo alle prossime, grazie alle due chiacchiere, mi cambio per te Claudio, ascolto il finale e poi chiudo, ciao Rubi. Sì, ciao Claudio, ci sentiamo, quando vuoi, sa dove trovarmi, buon tutto, buon proseguo di serata, avanti lo posso Claudio. Ok, grazie a voi per avermi risposto, ci sentiamo alle prossime, ciao Claudio, ciao Roberto, ciao anche a chi sta ascoltando, avanti. No, la stavo guardando adesso, una radio a valvole, ti è presente del 74, per cui se è stata usata bisogna considerare le condizioni di utilizzo. I prezzi ho visto, ce n'è una negli Stati Uniti, la stanno vendendo $60, non ho letto se è funzionante o cosa. FM dimenticatene, quella, non è detto neanche che ci abbia la M, è possibile che abbia soltanto la banda laterale e CW, perché all'epoca quel tipo di radio le facevano solo. Come ha detto Claudio, è una radio da collezione, può essere interessante se uno gli piace tenerla così, metterla anche in funzione qualche volta, però confrontata a un 757 stiamo parlando di una tecnologia di minimo, non dico 20 anni, però almeno 15 anni di differenza, non hai l'indicazione digitale della frequenza, c'è una scala graduata, è una radio un po' più problematica da utilizzare, però sempre una bella radio per chi piace il genere. Vedi un po' tu, ma non che non fate scambio, dici guarda questa è rotta, arrangiala te la tu e questa se è funzionante, perché non ha molto valore a livello economico di ho visto le valutazioni, è solo una radio così da tenere in vetrina, ha fatto la storia della radio, tra cui quella che hai detto tu è stata utilizzata per il navigatore da cosa, Ambrogio Fogar, è il nome della persona, Ambrogio Fogar ha fatto anche una spedizione nell'Antartide, un sacco di cose, è morto anche il compagno, io lo seguivo abbastanza perché c'era un programma quando ero ragazzino alla televisione e parlavano proprio di Ambrogio Foga, c'era il cane Armaduco, diciamo sono abbastanza interessato. Si era un po' comportato male perché aveva abbandonato il suo compagno di spedizione cercando, diciamo ci sono storie non tanto belle di lui, non so se siano bugie o balle, però lasciamo perdere. Poi in barca aveva fatto delle cose, dei giri per il mondo, adesso mi ricordo. No vabbè, tu non stai fregando a nessuno, glielo dici chiaro e tonto, visto è piaciuto la radio, gli dici i problemi che c'ha, quello che qualcuno può cercare di ripararlo, cioè dici guarda, la ripari tu, ti arrangi tu, se eventualmente ti interessa quel tipo di radio, ma valuta bene, dai, se è una radio che ci tenete la vuoi utilizzare, sicuramente lo IESO è molto migliore. Quell'altra è una radio da collezione, ti può dare soddisfazione perché è una radio a valvole, sicuramente all'epoca funzionava più che bene. Io non la conoscevo, l'ho guardata qua, ho letto le prestazioni, le caratteristiche, all'epoca era una radio all'avanguardia, negli anni 70 naturalmente, stiamo parlando quasi 50 anni fa, per cui la tecnologia è aumentata di gran lunga, però c'è uno solo divertire, niente da eccepire, naturalmente bisogna verificare effettivamente se sia la radio quella che ha utilizzato effettivamente Ambrogio Foga, perché quello può essere un valore aggiunto alla radio. Io ci credo pochissimo che sia andata a finire in mani dei privati una radio del genere, anche se per dire può essere distrutta, rovinata, quello che vuoi, che sia andata, normalmente quelle radio le tengono in associazioni, non dico musei, però ci sono associazioni di cose navali, leghe navali, cose del genere, se la prendono e se la mettono in vetrina come fanno una piccola targhetta, almeno funziona così nel mare. Avanti di nuovo a te, se no ti fai dare l'FT1000 e dici guarda ti prende 757 e mi dai l'FT1000. No, per il momento no, non mi interessa, poi a me piace, non piace vendere, te l'ho sempre detto, io sono di quelli per gli scambi, se c'è una cosa come abbiamo fatto per quell'altra cosa famosa, cioè quello, a me mi interessa quello, ci mettiamo d'accordo, a me a vendere, non poi trovo soprattutto gli amici, quando siamo amici preferisco, dico te tieni te lo regalo, perché non mi piace vendere, poi non voglio avere rompimenti di scarpe, preferisco scambiare, di vista è piaciuto, per dire come abbiamo fatto l'altra volta, ti piace questo, sì, a me mi interessa questo, dammi quello e buh, perché poi succede, mi ha dato una fregatura, la radio non funziona bene, quella e quella, finché dici la vendi su eBay, su coso, dicimi, chiunque se la prenda, a rischio e pericolo, gli dici che la radio ha dei problemi e sarà, però dagli amici io non vendo niente, se tu controlli, anche io ho tante cose, non parliamo di radio, parliamo di altre cose, di altri campi, hi-fi, casse eccetera eccetera, non ho mai venduto niente, ho sempre fatto scambio, al limite ho comprato, ma di vendere, ti ripeto, non è la mia politica. Ok, di nuovo lasciamo un attimino di bianco, Claudio, vediamo se entra qualcuno, se non riprendi tra qualche secondo tu, dai tu Claudio. No, dico, non puoi confrontare un TS2000 con un 767, stiamo parlando di due cose completamente, cioè una 500 confrontata con un Mercedes, in parole povere, stiamo parlando di due cose completamente diverse. Un TS2000 è stato poco apprezzato all'epoca quando è uscito, ma adesso è stato riapprezzato dai radioamatori perché era una radio molto molto efficace, soprattutto perché è stata una delle prime radio digitali che all'epoca era anni avanti rispetto alla concorrenza, quando è nata ha fatto delle prestazioni ottime, naturalmente in AM diciamo c'aveva dei limiti, è stato fatto per altri tipi di scopi, era un quadrimada, la versione più bella è quella nera che a me piace di più ed è una radio molto molto bella. Il 767 così come il 757 non puoi confrontarlo con un KMV 440, se lo devi utilizzare qua il 27 è fatto per altre cose, e il KMV sulle bande 11-20 penso che non ce ne sia di meglio, ma anche non utilizzi degli equalizzatori o cose particolari, compressione dinamica, per avere una modulazione fedele, il KMV è sempre il numero uno da parte mia, almeno è quello che ho apprezzato io. Poi ci sono modelli magari più specifici che hanno delle prestazioni un pochettino migliori, altri un po' peggiori, anche se magari sono di alta gamma, magari i 27 vanno non bene, per cui perdono qualcosa, però con un 440, un 140, un 430, se andando alla grande come trasmissione, se lo devi usare in 11 metri, però tra il 430 e il 440 forse a livello di ricezione è meglio un po' il 430, però a me come funzionalità mi piace più il 440 perché c'è la possibilità di memorizzare più canali, quell'altro ne ha soltanto 23, basta, solo quello, forse come affidabilità siamo lì perché ci sono difetti sia uno che nell'altro. Il 140 è un muletto, invece è indistruttibile, lo tiene spento 10 anni, lo riaccendi e funziona sempre, però non piace il discorso degli slider per aumentare il livello di potenza e il livello del microfono. insomma, è un po' scomodo da utilizzare, anche quello c'ha pochi canali e l'hanno limitato per quello, però diciamo per iniziare va bene. TS2000, ripeto, è una bella radio, anche io ho un pensierino, ce l'ho sempre fatto, ho detto dovendo prendere una radio per iniziare l'attività radioamatoriale, TS2000 con quel prezzo non credo che ci sia molto di meglio. C'era a discapito suo che il fatto che c'ha, è un quadribanda, per cui se si rompe qualcosa si rompe tutto, non è come una radio avere quattro radio diverse. Normalmente i radioamatori utilizzano quattro radio per ogni tipo di utilizzo di banda e di cose. Quella lì c'è tutt'uno, finché funziona bene, non ho sentito grossi problemi comunque sul TS2000. Avanti a te di nuovo il mic. Sì, vabbè, l'FT2000 è una radio molto più recente, ancora meglio, diciamo progressiva rispetto all'altra, ottima radio. Dimmi una cosa, visto che è sempre in giro cercando questo Nicola, io ho un build, un wattmetro build, sicuramente lui lo conosce, se non lo conosce te lo dico io, un bellissimo apparecchio utilizzato dai più grandi laboratori perché è molto affidabile, e c'ha dei tappi, si chiamano tappi, e servono in base alla frequenza, alla potenza, ci metti quel tappo lì. Io ho due tappi, però sono per frequenza, questo arriva da 100 a 250 MHz, diciamo per le V, va bene, e sto cercando il tappo che va da 0 a 30, da 0 a 25, e un centinaio di watt di resistenza, diciamo, di sopportamento di potenza. Chiedi un po' se riesci a trovare qualcosa. Ricordali, un wattmetro la Beard, che ha 2 secondi di bianco e poi riprendo io. Se c'è qualcuno che vuole entrare avanti sul canale 10, nulla, come non detto. Dimmi una cosa, questo che stai utilizzando adesso di apparecchio, c'è anche l'FM? No, se no volevamo andare in USB. Come stavo uscendo? Io l'ho provato l'altro giorno, quando ho provato ero con un'altra radio in banda laterale. Come uscivo? La modulazione com'era? E così mi dai anche il controllo di segnale. Aspetta un attimino, cambio la radio. Devo cambiare radio però. Ci sei? Facciamo riprendere un giro. C'è Claudio da Muro, poi chi c'è? C'era Franco Binario, mi sembra. Se non sbaglio, c'è ancora Franco? Sì, sì, mi sto ascoltando. Aspetta che saluto Antonio Bombolo. Ciao Anto, ci sentiamo, dai, che sto chiudendo. Sono entrato per salutarvi, che sono entrato da Porta del Cane. Ciao a tutti, ciao. Ciao Cla. Ah, sei in banda laterale, Franco. Hola! Attenzione, gappa! Oh, sono in M! Ah, adesso sei in M, poco fa in banda laterale, sentivo male. Ciao Anto, ti ho salutato, buona serata a tutti e buon proseguo di questi, ciao ciao. Ehi gappa, dai, vado a mangiare. Ok, ci sentiamo, ciao ciao. Hola, hola la mazza che ti ne varia. Ehi Anto, buona cena, anche io adesso tra qualche minuto vado anche io. C'è anche Franco da Sorso, sbaglio, avanti. Sì, non so se mi senti, però già ci sono. Ciao Roberto, ciao Turio, e lo so che già altro c'era. Sì, ti ascolto, 9 più 5, col picchio arriva a 9 più 10, c'è Claudio da Muros e Franco da Sassari. Facciamo riprendere più lontano Claudio, se ti ascoltate, e poi a Franco qua di Sassari. C'è Franco da Sorso e Franco Binario da Sassari. Di nuovo Franco da Sorso per Claudio, che non ha capito chi è. Ehi, ciao Claudio, devo ascoltarti. Franco da Sorso, a Franco da Sorso c'è anche Franco da Sassari, avanti Franco da una bassa di Sassari per Club Muros. Sì, sì, sì, ciao anche a Franco da Sorso, non so se mi ascolta, un abbraccio da parte mia, un po' che non lo ascoltavo. Volevo chiedere a Claudio di Muros come mi ascoltava in banda laterale. Ok, l'importante è la modulazione, anche qua il segnale non è che sia un granché, però ti ascoltavo bene anche io. Capa, adesso sono anche un po' agganciato, ok, dai, avanti Robè. E a tu eri leggermente spostato tu Franco, la modulazione era buona, chiara, però lì leggermente spostato, piacevole la radio. E tu come mi ascoltavi a me? Come mi hai detto di spostarmi, ti perdevo di modulazione, purtroppo sicuramente non sono allineato, capito? No, dico, quando era allineato era notavi grosse differenze rispetto alla M? Io diciamo che avrei abbassato un po' la forza della radio, la modulazione, perché era molto forte. Il segnale com'era? Più forte, aumentava? Beh, il segnale è più o meno simile, con picchi di 9,30. Perché dovrebbe aumentare parecchio, perché la radio spinge parecchio in banda laterale. Ok, allora signori, io adesso vi devo lasciare perché devo andare a mangiare. Saluto di nuovo, facciamo il giro da Claudio il più lontano, poi Franco di Sorso, Franco di Sassari e poi qua tutti gli eventuali amici in canale 10 che sono in ascolto. QRT definitivo da parte mia, alle prossime. Ciao ciao e buon proseguo di QSO. Sì, K. Ciao Roberto, buon QRT, alle prossime. grazie mille, mi ha fatto piacere ascoltarti, dai. Ciao anche a te Claudio, anche a te buon curetti e alle prossime, sempre in ottime condizioni. Avanti Franco di... saluto anche Antonio Bombolo, ben entrato. Avanti Franco di Sorso. Capo, vedi, volevo, Claudio se ne è già andato, se no se, dovrebbe essere meglio questa la radio, perché adesso poco fa stavo usando un'altra radio con il microfono originale, mentre ora sto usando il K con le 2060. Ok, comunque ciao Claudio De Muro, ciao anche a Roberto, buona cena quando la fate, buon tutto, ce la ascoltiamo le prossime. Ok, Antonio Bombolo ci sei? No, mi sa che se n'è andato Antonio Bombolo a mangiare. Avanti fra. Sì, sì, ora che ricordo ha detto che andava a mangiare, sì, forse. Hai ragione proprio tu. No, qui arrivi bene, cioè il segnale, ripeto, non è un granché perché è una zona negativa per me, il sorso. Però ti ascolto bene, se non ho disturbi di QRM, motori elettrici, cose varie, pompe di calore, ti tiro fuori benissimo. Capo. Sì, sì, no, è poco fa stavo usando 706, stavo usando con il suo microfono la topoletta originale. Magari mi ascoltava abbastanza per quello. Ma non credo, dai, è che. Mi sa che anche lui c'ha dei disturbi. Come tutti, dai, qualche cosa c'è sempre in giro che ti disturba qua. Sì. Infatti io, quest'anno non ho sentito ancora il rumore. C'ho due antenne qua, c'ho fianco a me. E gli anni scorsi mi faceva un rumore, mi entrava tipo lanternata, mi faceva un rumore brutto, mentre adesso o gli hanno messo dei filtri, gli hanno messo qualcosa, però non li sento più. Fra, mille ti sta chiamando Fortunato, ciao. Avanti Fortunato, non lo so se lo sento. Ha detto attenzione, più grande mulettista dell'Eniche. Lui è così bassa. Vabbè, eri a lascia in pensione, ciao Fortunato. Grazie altrettanto. Ammazza. Ciao a tutti, dai, che ho cambiato radio. Riprendi Franco di Sorso. Salutano che non lo sento io. A meno che non si sta avvicinando. Hai inteso, hai Fortuna, ha detto che non ti accoppia. No, non mi piace Franco. Mi piace più tu, capito? Ah, per quello, allora non ti accoppia. Ha detto non ti accoppia perché non le piaci. Non è il mio tipo ancora. Vabbè sarà, ha iniziato con tutti così, ma anche per me non è il mio tipo. Poi l'ho visto senza maglietta, mi è piaciuto. Avanti Franco di Sassari, dai, buonasera di nuovo a tutti, alle prossime, ciao Fortuna. Ciao Claudio. Che ti ha salutato Claudio? Ho rilanciato a te se mi senti, non lo so se mi senti, boh. No, qualcuno ti ha salutato, dico ciao Claudio, ho lasciato per quello il bianco. Sì, mi ha salutato Fortunato, dai, ok, ciao Fortunato, un abbraccio, ciao a tutti di nuovo, che mi stavo cambiando, sento Fortunato, sono entrato a salutarlo, riprendi Franco di Sassari, ciao. Sì, sì, no, perché era un altro segnale, sicuramente, o in movimento, perché prima lo ascoltava a malapena, invece poc'anzi era dato una bella botta di segnale, dai, vediamo un po' se mi ascolta, Fortunato. Sì, Franco, una buonasera, sono entrato come sono uscito dalle gallerie. No, Franco, lo sentivo lì coordinate Muros, poi con Franco ci conosciamo tantissimi anni, ma vediamo un po' se riesce a copiarmi. Franco! Sì, adesso ti tiro fuori, basso basso ma ti tiro fuori, ciao Fortunato! Sì, ebbene, come va? Tutto bene, Fra? Tutto a posto, meglio di così non si può andare. Dai, che lunedì ripeto tuo collega, dai! Davvero, auguroni! Grazie Franco, dai riprendete che io sto arrivando qua a base Trabacco. Franco di Sassari, riprendi? Auguri mi Fortuna, auguri, noi abbiamo già finito e tu sei come incendi. Cappa, Dai, a godertela, un abbraccio grande grande, tantissimi auguri, vai Franco di Sassari. Sì, sì, un bel traguardo, complimenti, dai. Arrivati tutti a sfasciargli le cazze a questo cavolo di IMSS. Lo auguro a tutti. Stai aumentando ancora, Fortunato, dove sei? Sono qua di fronte in modo convenienza. Ah, ho capito, qui zona Pradaniere, dov'è? Oppure Ottava? No, no, qua sulla X131. Ah, quindi Ottava, dai. E io vivo via le Porto Sole. Ho capito, molto conveniente. Adesso pensavo dove c'hanno il deposito, dai. Sì, punto vendita, no il magazzino. Ho capito, capito. No, ma avanti, Fra. Chiappa, è ancora da ottava lontano. C'è un persona in strada. Punto vendita è qua. Aspetta, lei si è ascoltato bene. Stai rientrando da fuori, Fortunato? Sì, ho la settimana di Cagliari. Facciamo gli arrivi da Porto Torres e poi viaggiamo tutta la settimana su e giù. Chiappa, va bene, va bene. Piano piano, hai visto? Ci sei quasi arrivato. Chiappa. Dai, con le scuse che io sto arrivando qua al magazzino. Franco, un abbraccio forte di sorso, anche a Franco di Sassari, già ci sentiamo, dai. Poi domani sera sento di aprire qua il mic per salutarvi. Cappa, ecco qua, sono rientrato. Buonasera, Fortunato. Chi sei che non ti ho riconosciuto? Cappa, Antonio Bombo sono. Ciao, Antonio. Ciao, una buona sera. Qua Fortunato Lacchi in barra pesante. Dai signori, da parte mia chiudo per motivi di trabacco, dai. Sentiamo, a domani. Cappa, ciao Fortunato, vi cambiate l'abbraccio, buon tutto, dai. E a godersela. Ci sentiamo, sperando sempre il meglio. E Cappa, ciao Fortunato, alle prossime, complimenti ancora. Avanti Bombolo. Cappa, buonasera, buonasera, sono rientrato. Che non mangi niente, ero. Cappa, chi è l'altro amico che mi arriva a Rove che stava parlando? Sì, a me stai dicendo. Mo. E sono piccolo piccolo, sono Antù. Franco, la sorte. Oh, buonasera, Franco. Cappa, ho detto chi è con questo segnale. Cappa. Piccolo piccolo, piano piano già ci arrivo. No, né forte né leggero. 9,5,6, esattamente. Quel lago sposta appena appena di più. Più preciso di chi ce l'ho in nervi, Smitter. Buono, buono. Avanti, Franco. Cazzo, un segnalone c'hai, allora. Pensate che anche più lontano di me, Bombo, lui ha l'antenna sul tetto, io ce l'ho attaccata alla finestra, dai. Magari mi è arrivato in 9 anche a me. Tu in occhi sei 9,40 quasi. Vabbè, noi siamo vicini. Vabbè, fra, è evidente che la zona tua lui è più aperto, magari. L'antenna sul tetto vuol dire molto, cioè la mia, la punta arriva sotto il cornicione. Guarda che per essere come sei messo non arrivi male, arrivi 8 qua, Vabbè, ma figurati sul tetto sicuramente un altro mondo, Sì, sul tetto dovresti arrivare più di 9, è ovvio, vabbè, la radio è bellissima, 5 è bellissima. Sì, no, sto usando un microfono, uno Shure da tavolo, un vecchio microfono degli anni 70-80, dai. No, fammi cagliare il motore a vedere come ti arrivi in sosso. E come il motore scaldi? Freddo dei nomi. Ok, dai ragazzi, io vi saluto che me ne vado a mangiare. Ci sentiamo. Buon proseguo di serata, buon tutto. E ci ascoltiamo alle migliori. Avanti Franco. Sì, Cappa, grazie per il QSO. Mi fate piacere ascoltarti, era un po' di tempo che non ti ascoltavo. Dai, cerca di entrare anche tu, vabbè, anch'io sono come te, entro poco ultimamente, per altri motivi che non siamo qua a discutere, però purtroppo a volte diamo priorità più alla famiglia che altre cose. E questo è proprio un hobby che si fa quando si può. Un abbraccio ancora e alle prossime, avanti Antù. Cappa, allora lo teniamo in stand by, che lo teniamo. Ciao Franco, ce la risentiamo alle prossimine, ciao ciao. Ciao ciao a tutti, dai, buona cena quando la fate, ciao. Cappa, avanti Claudio, tu vi sei rogge. Mi sai che tu ti mangi niente, via tu, tra poco vado anch'io, Tu hai fatto un prete a mangiare. Io mi ho mangiato un pocaretto di... di cartoffi con i battati, poi c'avevo dei carciofini sott'olio che ha giubilato di oggi e mi ha mangiato buruchissi e a bui vasa, no, c'avevo degli olive di chi si niente e mi ha mangiato buruchissi. Se mai fatto in presa hai fatto, deve essere veloce mangiando. Sai cosa avevo a mangiare? Mio padre dice che è svelto mangiando e svelto lavorando. Non va tutto di dolce burro, No, sa, non ti conosco, però lui dice così. Non, non è sempre vero, non è che conosco gente che mangia un bene e travaglia poco. Io gioco esattamente come ti dice Babudoio. È uguale. Sì, sì, no, anch'io sono così, mangio anch'io in fretta, forse anche troppo. Mastico anche poco. Però purtroppo è così. A volte quando facciamo la merenda la mattina alle 9, un panino, manco lo becco. Gli altri sono ancora a metà, io ho già finito. Capo. Sì, sono proprio fatto così, sono. Ma niente, è arrascende, cioè fanno mille cose. Sono esattamente così, come dici tu. Eh sì, dai. Adesso ti saluto che anch'io vado a caricare un po' la batteria. Un abbraccio e alle prossimine, buon tutto, ok? Anche ancora il mic. Cappa, dai, ciao, ci sentiamo. Ciao, Anto, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi, Marino. Fabio Damiano, e abbraccia la radio, che c'è troppo voce. Tanto, stavo chiudendo tutto, stavo attaccando, ciao, ciao anche a Franco, se mi sta ascoltando, dai. Io sto chiudendo, che vedo, se la faccio qualcosa, mi stavo ascoltando. Ok, vai, sentiamo tu, ciao, ciao. Ah, travaglio, burundù, corri, mi si offende. Anto. Ascolto, capito? Sì. Ehi. Ma c'è solo un calma, va. Anto. Ehi, dimmi. Ma non si è passato oggi nell'aria? Come no? Ah, dopo. Anche ieri sono passato con Sara pure. Ah, ieri che mi ha detto si è passato con Sara, io. Sì. È così, Non avevo capito se eri passato oggi, se eri passato ieri. Va bene, movimento c'era? Un po' sì, già stavo lavoricchiando. No, sono passato anche oggi. E quasi tutti i giorni passo, solo un paio di giorni non sono passato. E oggi come era andato? Io sono un po', non ci vado, sono impegnato a sto cazzo di jazz. Io ho visto che qualcuno ce l'aveva anche su, ho visto. Penso che sia un andazzo normale, da. Non lo so che poi in certe ore magari travaglia di più. Sì, certe ore sì. Ma no, non c'è molto movimento come prima. No, vabbè. Va bene, poi speriamo adesso che non chiudano per Pasqua, cazzo. Se fa vedere di chissà cosa. Ma dove si deve inizzare? In prigione si deve inizzare. Cioè, hanno detto una cosa e a quanto pare stanno facendo un'altra. Hanno detto che lì nei porti e nelle cose dell'aeroporto ci devono essere i controlli a bomba. A quanto pare che queste cose non stanno succedendo, a quanto pare. Io spero che ci sia qualcosa, tu, non so. Perché ho sentito appunto che hanno dato il via per le seconde case per chi ha la residenza in Sardegna, quindi speriamo bene che non chiudano, perché sono dei giorni appunto che si lavora e ci sono di rimanere aperti, quindi speriamo bene veramente. Cabo.